ad alta voce. Sandra Toffolatti legge Il diario di Eti Illesum. Traduzione di Chiara Passanti. 19 giugno, venerdì mattina, 9:30. Sai cosa mi dà la nausea, mia cara? La tua mezza franchezza e la tua mezza enfasi. Ieri sera volevo ancora scrivere qualcosa, ma in fondo erano sciocchezze senza capo né coda. Certe volte ho paura di chiamare le cose per nome. Forse perché non rimarrebbe più niente allora? Le cose devono poter essere chiamate per nome, e se non reggono a questa prova non hanno il diritto di esistere. Spesso si cerca di salvarle con una sorta di vago misticismo. Il misticismo deve fondarsi su un'onestà cristallina. Quindi, prima, bisogna aver ridotto le cose alla loro nuda realtà. Spesso, quando torno a casa alla sera, trovo che ho vissuto delle esperienze straordinarie durante il giorno e allora vorrei subito scriverci su qualcosa di immortale, addirittura. Non penso a registrare le mie esperienze con parole semplici e magari sgraziate, dopotutto scrivo solo un diario, ma pretendo subito di estrarre aforismi e verità eterne dalle esperienze più banali. Immagino che meno di così io non possa fare. E lì cominciano già le incertezze e le generalizzazioni. Trovo, certo, che parlare della mia pancia è ben al di sotto della mia dignità spirituale. Strano che questa importantissima parte del corpo abbia un nome così goffo. Se io volessi scrivere qualcosa sui miei umori di ieri sera, dovrei innanzitutto notare con molta schiettezza e obiettività era un giorno prima delle mestruazioni e allora sono responsabile a metà. E se Anne non mi avesse spedita a letto a 12:30, sarei ancora seduta alla mia scrivania. Non credo che si tratti di momenti veramente creativi, è così solo in apparenza. Tutto è allora in disordine e sommovimento dentro di me. Io divento agitata e come sconnessa, qualche volta anche sconsiderata. Ed è tutto dovuto a quel fenomeno femminile che si verifica, per me purtroppo, ogni 3 settimane, a sud del mio diaframma. E così si spiegano anche diverse mie reazioni di ieri sera. Tra poco avremo macchie d'unto sui libri e macchie d'inchiostro sul pane imburrato, dice Pan. La famiglia pranza ancora. Io ho messo da parte il mio piatto e sono lì che copio Rilke, tra le fragole eccezionali e quello strano coniglio. Ora la stanza si è svuotata e sono seduta con le briciole sulla tovaglia, un ravanello solitario e i tovaglioli sporchi. Kate sta già lavando i piatti in cucina. È 1:30. Ora vado a dormire per un'ora, fino a quando il peggio del mio mal di pancia è passato. Alle 5 viene un tale mandato da Becker, che suppongo voglia prendere lezioni di russo. Stasera devo leggere ancora Pushkin per un'oretta. Non ho da fare le code e non ho quasi da preoccuparmi per l'andamento della casa. Non credo che in Olanda ci sia un'altra persona che viva in condizioni altrettanto buone, o così mi sembra perlomeno. Devo far buon uso di tutto il tempo che ho a disposizione e che non è consumato dalle preoccupazioni quotidiane. Devo sfruttarlo minuto per minuto. È una responsabilità pesante. Ogni giorno trovo che non lavoro con abbastanza concentrazione e intensità. Ho davvero degli obblighi morali. Sabato sera, 12:30. Per umiliare qualcuno si deve essere in due. Colui che umilia e colui che è umiliato e soprattutto che si lascia umiliare. Se manca il secondo, e cioè se la parte passiva è immune da ogni umiliazione, questa evapora nell'aria. Restano solo delle disposizioni fastidiose che interferiscono nella vita di tutti i giorni, ma nessuna umiliazione e oppressione angosciose. Si deve insegnarlo agli ebrei. Stamattina pedalavo lungo lo Stadion Cade e mi godevo l'ampio cielo ai margini della città. Respiravo la fresca aria non razionata. Dappertutto c'erano cartelli che ci vietano le strade per la campagna. Ma sopra quell'unico pezzo di strada che ci rimane c'è pur sempre il cielo, tutto quanto. Non possono farci niente, non possono veramente farci niente. Possono renderci la vita un po' spiacevole, possono privarci di qualche bene materiale o di un po' di libertà di movimento, ma siamo noi stessi a privarci delle nostre forze migliori col nostro atteggiamento sbagliato, col nostro sentirci perseguitati, umiliati e oppressi, col nostro odio e con la nostra millanteria che maschera la paura. Certo che ogni tanto si può essere tristi e abbattuti per quel che ci fanno, è umano e comprensibile che sia così. E tuttavia siamo soprattutto noi stessi a derubarci da soli. Trovo bella la vita e mi sento libera. I cieli si stendono dentro di me come sopra di me. Credo in Dio e negli uomini e oso dirlo senza falso pudore. La vita è difficile, ma non è grave. Dobbiamo cominciare a prendere sul serio il nostro lato serio. Il resto verrà allora da sé. E lavorare a se stessi non è proprio una forma di individualismo malaticcio. Una pace futura potrà essere veramente tale solo se prima sarà stata trovata da ognuno in se stesso. Se ogni uomo si sarà liberato dall'odio contro il prossimo, di qualunque razza o popolo, e se avrà superato quest'odio e l'avrà trasformato in qualcosa di diverso, forse, alla lunga, in amore, se non è chieder troppo. È l'unica soluzione possibile. E così potrei continuare per pagine e pagine. Quel pezzetto d'eternità che ci portiamo dentro può essere espresso in una parola come in 10 volumoni. Sono una persona felice e lodo questa vita. La lodo proprio nell'anno del Signore 1942, l'ennesimo anno di guerra. Domenica mattina, le 8. Ho accanto la mia colazione. Un bicchiere di latticello, 2 fette imburrate di pane bigio con cocomero e pomodoro. Ho rinunciato al bicchiere di cioccolata che mi concedevo sempre un po' di soppiatto alla domenica mattina. Voglio abituarmi a questa colazione più monacale che mi aiuta a raggiungere i miei appetiti nei luoghi più nascosti e a sradicarli via. È meglio così. Dobbiamo imparare ad affrancarci sempre più dalle necessità fisiche. Dobbiamo abituare il nostro corpo a chiederci solo l'indispensabile, soprattutto nel campo del cibo, perché stiamo andando verso tempi difficili, anzi, ci siamo già. Eppure trovo che stiamo ancora magnificamente bene. Ma è meglio abituarci a una certa astinenza in periodi di relativa ricchezza che essere poi costretti in momenti di reale bisogno. Quello che otteniamo spontaneamente da noi stessi ha basi più solide e durature di quello che realizziamo per forza. Ricordo il professor Becker col suo pacchetto di mozziconcini di sigarette. Dobbiamo affrancarci dalle cose materiali ed esteriori a un punto tale che lo spirito possa continuare comunque il suo cammino e il suo lavoro e dunque niente cioccolata ma latticello. Quanto c'è da fare sulla mia scrivania! Il geranio che Tide mi aveva dato solo una settimana fa dopo quell'improvviso torrente di lacrime è sempre lì. E poi ci sono quelle pigne. Mi ricordo bene di quando le avevo raccolte. Era nella brughiera, dietro la casa di campagna della signora Rümke. Deve essere stata la prima volta che passavamo insieme una giornata in aperta campagna. Avevamo parlato di demoniaco e non demoniaco. E così non rivedremo più una brughiera per molto tempo. Qualche rara volta sento questi divieti come una privazione opprimente. Ma in genere so che il cielo tutto intero si stende sopra di noi, sopra l'unica stretta strada che ci ha ancora consentito di percorrere. E le 3 pigne mi accompagneranno, se necessario, fino in Polonia. Santo cielo, questa scrivania somiglia proprio al mondo del primo giorno della creazione. A parte gli esotici gigli giapponesi, il geranio, le rose tee appassite, le pigne che sono diventate reliquie e una ragazza marocchina dallo sguardo animalesco e limpido, ci sono in giro Sant'Agostino e la Bibbia e le grammatiche russe e i dizionari e Rilke e innumerevoli piccoli taccuini, una bottiglia di surrogato di limone, carta per scrivere a macchina, carta copiativa, Rilke, cioè ancora un'altra raccolta, e Jung. E tutto questo è solo ciò che si trova in giro al momento. Martedì mattina, 8:30. Solo pochi giorni fa avevo avuto dei pensieri quasi vendicativi e ingiusti. Stamattina ero lì, nel mio letto, che ridevo di colpo, a più non posso per la mia follia infantile. M'ero trovata di fronte al viso di Herta, che continua sempre a sorridere da sopra il cassettone. Il letto di esse era già preparato per la notte. Ero alla porta e volevo salutare, e intanto con un occhio guardavo quel sorriso che per me dura già da 16 mesi, e con l'altro occhio il letto, e pensavo con rabbia e tristezza e con un senso di solitudine. Già, il letto colorato è per quella noiosissima signorina dal sorriso senza vita. Se lui potesse leggere questi sfoghi da donna offesa, probabilmente farebbe tremare le pareti dal ridere. Povera Herta, come sono ingiusta nei tuoi confronti. Di colpo mi domando com'è la tua vita lì a Londra. A volte me lo chiedo quando arrivo in bicicletta nella sua strada silenziosa e vedo da lontano la sua figura che fa cenno con impazienza e intanto si sporge sopra il geranio che coi suoi lunghi gambi si dissangua sul davanzale. E allora salgo di corsa i gradini di pietra fino alla porta di casa, che in genere lui ha aperto nel frattempo, ed entro senza fiato nelle sue due camerette. Certe volte è ritto in mezzo alla stanza e ha un'aria così possente, impressionante, come se fosse stato scolpito nella pietra grigia di una roccia che esisteva già il terzo giorno della creazione. E altre volte non è affatto impressionante, ma bonario e goffo come un orso impacciato e caro, così caro come non avrei mai pensato fosse possibile a un uomo senza essere noioso o effeminato. Qualche volta un pensiero improvviso modella i suoi tratti, che si tendono come vele al vento, e lui dice «stia un po' a sentire», e poi segue per lo più qualcosa di istruttivo. E sempre ci sono le sue grandi mani, a trasmettere un calore e una tenerezza che non nascono dal corpo ma dall'anima. Povera Herta, lì a Londra. Sono io a prendermi la maggior parte di ciò che le nostre vite hanno in comune. In futuro potrei spiegarti tante cose di lui, cose imparate attraverso il dolore, che mi ha anche insegnato che si deve poter condividere il proprio amore con tutta la creazione, con il cosmo intero. Ma in quel modo si ha anche accesso al cosmo. Però il prezzo di quel biglietto d'ingresso è alto e pesante e lo si guadagna risparmiando a lungo, con sangue e lacrime. Ma nessun dolore e lacrime sono troppo cari per questo. E tu dovrai passare attraverso le stesse cose, cominciando dal principio. A quell'epoca io viaggerò freneticamente per il mondo, perché non sarò ancora integrata nel cosmo e per certi versi rimango pur sempre una donnetta limitata. E probabilmente tu dovrai percorrere una strada simile alla mia, perché quest'uomo è così impregnato d'eternità che non potrà più cambiare molto. Penso che tu e io abbiamo molto in comune, altrimenti come avrebbe potuto nascere questa amicizia fra lui e me? Tu sarai un po' più timida e solitaria di quanto non lo sia io ora, e più pesante, mentre io sono più fantasiosa. E le mie privazioni cominceranno quando tu entrerai fisicamente nella nostra vita. Lui troverà sciocche queste parole, perché può dare in sovrabbondanza a più di una persona e con lui nessuno ha mai da rinunciare a niente. Ma noi donne siamo fabbricate in modo così singolare. La mia vita si incrocia spesso con la tua. Come sarà più tardi nella realtà? Se ci dovessimo incontrare per davvero, dobbiamo stabilire fin d'ora di essere comunque ben disposte l'una verso l'altra. perché significherebbe che la storia ci permette di nuovo di respirare e di vivere liberamente. E nell'esperienza comune di quel gran bene non dovrebbero più sussistere contrasti tra le singole persone. Non sei disperata qualche volta lì dove sei, dall'altra parte della Manica? Ma certo, non conosco bene tutte le tue lettere. E come fai a sopportare tutto questo da sola, una ragazzina così giovane, in quella grande città bombardata? In fondo io ti ammiro. E se cominciassi a provare compassione per te, non finirei più di compatirti. C'è una donna ad Amsterdam che prega tutte le sere per te. E questo è veramente grande da parte sua, perché subito dopo Dio vuol bene a lui, con un amore che è il primo e l'ultimo della sua vita. Sono contenta che ci sia qualcuno che preghi per te. In questo modo la tua vita è più protetta. Né io sarei in grado di farlo, per ora. Io non sono veramente grande, tranne che forse in qualche raro momento illuminato, ma per il resto sono carica di tutti i vizi che appesantiscono il cammino dell'uomo nel suo viaggio verso il cielo. Gelosia e riluttanza meschina e così via. Per fortuna conosco le poche cose grandi che contano nella vita. E forse arriverà una sera in cui pregherò per te, libera da qualsiasi pensiero recondito e meschino e dalla gelosia. E quella sera ti sentirai di colpo così bene e riconciliata con la vita come non lo eri stata da molto tempo, e tu stessa non capirai da dove ti venga quel sentimento. Ma io non sono ancora arrivata a quel punto. E ora al lavoro. Chissà cosa fai tu in questo momento. La tua lotta quotidiana per la sopravvivenza è tanto più difficile della mia che potrei sentirmi in colpa nei tuoi confronti, come già mi sento in colpa di fronte a coloro che debbono arrancare per procurarsi il cibo quotidiano, far lunghe code, eccetera. Tutto questo mi crea grandi doveri morali e responsabilità. Tra le mie occupazioni principali c'è lo studio della lingua russa e del grande amato paese in cui si parla quella lingua. Il giorno in cui tu approderai qui, andrò a occhi chiusi alla stazione e comprerò un biglietto che mi porti dritto nel cuore di quel paese. Che ne dici di tanto romanticismo infantile alla mattina presto e in tempi come questi? Certo che mi vergogno, ma la verità è che talvolta vedo le cose così nella mia fantasia. Erta, se tu sapessi quanto è minacciata la nostra esistenza. In questa mattina di sole scrivo ingenuamente di approdare e di incontrarci, ma forse prima di allora ci troveremo, miseri e stenti, in un campo inospitale. Qui la nostra vita è di giorno in giorno più minacciata. Come andrà a finire, non lo sappiamo. Giovedì pomeriggio, da una lettera di mio padre, nel suo umorismo inimitabile. Oggi è cominciata l'era delle non biciclette. Ho consegnato personalmente quella di Misha. Leggo sul giornale che a Amsterdam gli ebrei hanno ancora il permesso di usarle. Che privilegio! Non dobbiamo più temere che le nostre biciclette vengano rubate. Per i nostri nervi è sicuramente un vantaggio. Anche nel deserto abbiamo dovuto farne a meno per ben 40 anni. 27 giugno, sabato mattina, le 8:30. Con parecchie persone in una cella stretta. Il nostro compito non è forse allora di mantenere ben odorosa la nostra anima in mezzo a quelle esalazioni viziose? Durante il nostro pomeriggio musicale di ieri Esse ha detto, dopo uno Schubert a quattro mani e poi Mozart. In Schubert ho dovuto pensare ai limiti del pianoforte, in Mozart ai pregi. E Mischa, esitante nella ricerca delle parole ma preciso nell'effetto, è vero, in questo pezzo Schubert abusa del pianoforte per produrre della musica. Più tardi ho camminato un pochino con lui lungo il canale. Di colpo sono stata sopraffatta dal presentimento di una separazione sempre più prossima e ho detto: forse non abbiamo più nessun avvenire. E la sua risposta è stata: sì, se intendi l'avvenire in senso materialistico, sì. Senza caffè e senza sigarette si può vivere, protestava Liesel. Ma senza la natura no, la natura non la si deve poter togliere a nessuno. Io ho detto: fa conto che siamo condannati al carcere, magari per qualche anno, e vivi con quei due alberi di rimpetto a casa tua come se fossero un bosco. E per essere in carcere abbiamo ancora una relativa libertà di movimento. Liesel, talvolta un piccolo elfo, una specie di bagnante al chiaro di luna di calde notti estive, è anche capace di pulire gli spinaci per 3 ore al giorno e di far la coda per comprare le patate fin quasi al punto di perdere i sensi. E qualche volta manda fuori dei piccoli sospiri che vengono proprio dal profondo e tremolano dai piedi alla testa per quel corpo magrolino. È come rivestita di timidezza e di castità, anche se i fatti della sua vita potrebbero non sembrare così casti, e ha insieme un che di robusto, una specie di forza primordiale della natura. Quel momento basso nei suoi confronti era stato proprio di breve durata, e sarebbe ben stupita se sapesse quel che scrivo ora. Effettivamente è l'unica amica che ho. Lunedì mattina, le 10. Dio non è responsabile verso di noi, siamo noi a esserlo verso di Lui. So quel che ci può ancora succedere. Adesso io sono separata dai miei genitori e non li posso raggiungere, anche se si trovano a 2 ore di viaggio da qui. Ma so esattamente in che casa abitano, so che non patiscono la fame e che sono circondati da persone ben disposte verso di loro. E anche loro sanno dove sto io. Ma potrà venire un tempo in cui non saprò più niente e i miei genitori saranno deportati e moriranno miseramente chissà dove. So che può succedere. Le ultime notizie dicono che tutti gli ebrei saranno deportati dall'Olanda in Polonia, passando per il Drente. E secondo la radio inglese, dall'aprile scorso sono morti 700.000 ebrei in Germania e nei territori occupati. Se rimarremo vivi, queste saranno altrettante ferite che dovremo portarci dentro per sempre. Eppure non riesco a trovare assurda la vita. E Dio non è nemmeno responsabile verso di noi per le assurdità che noi stessi commettiamo. I responsabili siamo noi. Sono già morta 1.000 volte in 1.000 campi di concentramento. So tutto quanto. E non mi preoccupo più per le notizie future. In un modo o nell'altro so già tutto. Eppure trovo questa vita bella e ricca di significato. Ogni minuto. Primo luglio, di mattina. Il mio spirito è riuscito ad accettare tutti gli avvenimenti di questi ultimi giorni. Le voci che corrono sono più distruttive dei fatti, perlomeno qui, in Polonia sembra che la strage sia al colmo. Ma il mio corpo si è sfasciato in 1.000 pezzi, ognuno dei quali ha un dolore diverso. È curioso come il mio corpo debba digerire le cose in un secondo tempo. Quante volte ho pregato, neppure un anno fa. Signore, ti prego, rendimi un po' più semplice. E se quest'anno mi ha portato qualcosa è stato proprio questa maggiore semplicità interiore. e credo che in futuro riuscirò anche a esprimere le cose difficili di questa vita con parole molto semplici. In futuro. E ora non posso più muovere né le membra del mio corpo né i pensieri del mio cervello, tanto sono a pezzi fisicamente. È quasi l'una. Dopo il caffè cercherò di dormire un po'. È alle 5:15 da esse. Certe volte la mia giornata è fatta di 100 giornate diverse. Ora sono a pezzi. Stamattina alle 7 ho passato un momento di un'irrequietezza e di un nervosismo infernali per tutte queste nuove ordinanze. È un bene, però. Così posso rendermi un po' conto della paura degli altri, visto che quella paura mi è diventata sempre più estranea. Alle 8 ero di nuovo la tranquillità in persona. Ed ero quasi fiera che, sentendomi fisicamente a pezzi, potessi ancora dar lezioni di conversazione russa per 1 ora e mezzo. Una volta l'avrei disdetta con la scusa della mia salute. E stasera sarà ancora un altro giorno. Verrà un'altra persona con problemi, una ragazza cattolica. Il fatto di potere oggi, come ebrea, aiutare una persona non ebrea dà una singolare sensazione di forza. Di pomeriggio, 4:15. Sole in questa veranda e un vento lieve che fa tremare il gelsomino. Vedi dunque, un altro giorno è appena cominciato. Quanti ne sono trascorsi da stamattina alle 7? Ora rimango ancora 10 minuti presso il gelsomino e poi, sulla bicicletta permessaci, vado dal mio amico, che è nella mia vita da 16 mesi e che mi sembra di conoscere da 1000 anni. Anche se a volte mi appare di una luce così nuova da farmi restare senza fiato. Com'è esotico il gelsomino. In mezzo a quel grigio e a quell'oscuro color di melma è così radioso e così tenero. Non capisco niente del gelsomino. Del resto non c'è bisogno. Si può benissimo credere nei miracoli in questo 20° secolo. E io credo in Dio. Anche se tra breve i pidocchi mi avranno divorata in Polonia. La sofferenza non è al di sotto della dignità umana, cioè si può soffrire in modo degno o indegno dell'uomo. Voglio dire, la maggior parte degli occidentali non capisce l'arte del dolore e così vive ossessionata da 1000 paure. E la vita che vive la gente adesso non è più una vera vita fatta com'è di paura, rassegnazione, amarezza, odio, disperazione. Dio mio, tutto questo si può capire benissimo. Ma se una vita simile viene tolto poi molto? Si deve accettare la morte, anche quella più atroce, come parte della vita. E non viviamo ogni giorno una vita intera. E ha molta importanza se viviamo qualche giorno in più o in meno. Io sono quotidianamente in Polonia, su quelli che si possono ben chiamare dei campi di battaglia. Talvolta mi opprime una visione di questi campi diventati verdi di veleno. Sono accanto agli affamati, ai maltrattati, ai moribondi ogni giorno, ma sono anche vicina al gelsomino e a quel pezzo di cielo dietro la mia finestra. In una vita c'è posto per tutto, per una fede in Dio e per una misera fine.